è stato comprovato più volte, era una cosa anche abbastanza dichiarata da parte di membri del governo in passato italiano, che specificano che l'arte può essere un modo di normalizzare le violazioni da parte di Israele dei palestinesi. Fa parte anche di contratti che artisti devono firmare quando viaggiano all'estero, quando sono sponsorizzata dal governo, e quindi è una cosa senz'altro comprovata. Approfitto per ricordare che comunque le campagne non sono mai nei confronti di singoli artisti israeliani. Qua stiamo, nel caso di Luca Comics, stiamo parlando di un rapporto istituzionale con l'ambasciata in Italia, ma vuol dire il governo israeliano. Ci puoi raccontare un po' i precedenti che ci sono stati, altri casi in giro per il mondo? Sì, ci sono casi molto importanti, anche risultati molto importanti, per esempio in Scozia con il Festival di Edimburgo, una campagna insieme a Ken Loach, il regista britannico, diversi anni fa, che a seguito della sua presa di posizione è riuscito a convincere il festival a restituire i soldi che aveva ricevuto da parte dell'ambasciata italiana. Quindi questa è una cosa molto importante, anche per dimostrare che il problema non sono gli artisti singoli israeliani che partecipano a questi festival, ma lo sponsorship del governo. Stessa cosa è successo in Australia con il festival di Melbourne, che anche questo con tanti attivisti, artisti che hanno boicottato il festival sempre per la sponsorizzazione del governo israeliano, e anche lì sono riuscita a convincere il festival ad avere una politica etica sul patrocinio, e quindi questi sono risultati molto importanti. Posso dire anche che, parlando solo di prese di posizioni di artisti in questi giorni, chiedo scusa ma non potrei mai raccontare tutti gli appelli da parte di artisti, ma stiamo parlando di attori di Hollywood, famosi musicisti che stanno prendendo posizione adesso contro gli attacchi a Gaza, e in alcuni di questi sostengono anche la campagna BDS, altri arrivano tra virgolette solo a chiedere il cessate il fuoco, però questo è un primo passo importantissimo. Come movimento abbiamo una modalità sempre sulla sostenibilità e gradualità delle campagne, quindi ben vengono queste prese di posizione, è un primo passo per questi artisti molto famosi che poi piano piano si informano, hanno più consapevolezza di quello che succede in Palestina e si avvicinano più alla campagna di via. In Italia soprattutto chi osa criticare Israele spesso viene tacciato di antisemitismo. Con l'ascesa in campo di artisti di fama anche mondiale, questo meccanismo è più difficile? Senz'altro gli attacchi ci sono sempre, anche perché giustificare quello che Israele sta facendo in questo momento è molto molto difficile. Bisogna ricordare che anche negli anni precedenti, nei decenni di anni precedenti, non è che c'è stato pace per il popolo palestinese, anzi vivono sotto un regime di apartheid. Quindi queste prese di posizione in passato e adesso sono importanti anche per parlare del contesto e creare anche le condizioni che sempre più artisti si sentono di poter pronunciarsi sulle violazioni di Israele, sapendo anche che ci saranno degli attacchi, però creare quelle condizioni in cui si sentono di farlo lo stesso. Questo è stato senz'altro il caso di artisti come Zero Falcare, che si è ritirato da Luco Comics, e anche Amnesty International in Italia si è ritirato dal festival insieme agli artisti Giancani e gli ultimi. Quindi si crea consapevolezza e anche le condizioni per far sì che gli artisti si sentano a suo agio a prendere parola su quello che succede.